Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Boumil Raval. Traduzione di Sergio Corduas. E così, d'un tratto venne a trovarmi Zdenek, che era un potente signore nella provincia e forse nella regione. Era del tutto cambiato. Non era più come prima. Si dondolava su un cavallo e guardava attorno, e quando mi sedetti sul cavallo vicino mi parlò a bassa voce e mi mostrò come prova una carta ripiegata, e prima che potessi impedirlo, strappò lentamente quella carta nella quale venivo nominato milionario e secondo la quale avrei pagato la tassa del milionario, e Zdenek saltò giù e buttò nel fuoco quella carta, quel decreto per me bello, quasi di nomina. Mi rivolse una triste risata e finì l'acqua minerale. Lui, che beveva solo superalcolici, e con un sorriso triste si allontanò da me. Lo attendeva un macchinone, un'auto nera, per riportarlo là da dove era venuto, da qualche parte nella politica che faceva, nella quale probabilmente credeva, che lo teneva, e che probabilmente doveva essere bella essere in grado di sostituire per lui tutti i suoi pezzi di bravura nei quali spendeva sempre tutti i soldi che aveva. Ogni volta un qualche pezzo filantropico, come se quei soldi gli scottassero, e così li restituiva alla gente a cui pensava che appartenessero. E gli avvenimenti poi precipitarono proprio come sognavo. Così facevo serate e pomeriggi sensazionali nel cava, grammofoni e pattinaggio e fuochi, sia nella fonderia che intorno al lago ghiacciato. Però i clienti che venivano erano tristi o allegri, ma non era l'allegria che conoscevo io. Era un'allegria forzata, come quella dei tedeschi quando festeggiavano ma sapevano che con le loro amanti e le mogli al cestino c'erano per l'ultima volta, e poi dal cestino, dritti al fronte. Allo stesso modo si congedavano da me i miei clienti, mi porgevano la mano e salutavano dalle auto come se se ne andassero per l'ultima volta e non sarebbero mai più tornati. E quando arrivavano era di nuovo la stessa cosa, erano malinconici, intristiti, perché lì neppure arrivava voce, però in politica tutto s'era rovesciato. C'era stato il febbraio e tutti i miei clienti sapevano che quella era la loro fine. Spendevano più che potevano, ma il divertimento e l'allegria genuina si perdevano, e anche io raccolsi quella loro tristezza. Avevo smesso di chiudermi a chiave ogni notte, tirare le tende e poi disporre in terra come se facessi un solitario e mi leggessi da solo le carte, le banconote da 100 dell'incasso quotidiano che portavo ogni mattina in banca, dove tenevo 1 milione di corone proprio in quei giorni. E così venne la primavera e i miei clienti, così come anche gli ufficiali tedeschi, tornavano al cestino, ma soltanto alcuni. Proprio così i miei clienti fissi smisero di venire. E io venni a sapere che erano caduti, che erano stati presi, arrestati, che alcuni erano fuggiti attraversando la frontiera. E così venivano clienti diversi e gli incassi erano ancora più alti. Ma io pensavo che era stato di quelli che erano da me ogni settimana. E quel giorno ne erano venuti soltanto due, ma avevano detto di essere milionari. E che il giorno dopo dovevano essere pronti e che dovevano avere con sé scarponcini e una coperta e calze di ricambio e cibo, che sarebbero stati portati in un campo di raccolta, perché erano milionari. E io gioii di essere milionario anch'io. Portai il libretto di risparmio e lo feci vedere a quei due clienti. Uno era un fabbricante di attrezzi per ginnastica e l'altro aveva una fabbrica di dentiere. Ora me lo dissero. e io gli mostrai il libretto di risparmio e subito andai a prendere anch'io lo zaino e scarponcini coi lacci e le calze di ricambio e i cibi in scatola. Anch'io mi preparavo che mi venissero a prendere perché quel fabbricante di dentiere mi aveva detto che tutti gli hotelier praghesi avevano ricevuto una circolare simile. E verso il mattino se ne andarono piangendo perché il coraggio di fuggire attraversando la frontiera non ce l'avevano. Non volevano più rischiare niente, mi dissero solo che l'America e la società delle nazioni non avrebbero lasciato correre, che avrebbero riavuto tutto e che sarebbero ritornati nelle loro ville e dalle famiglie. Aspettai un giorno, poi due, poi una settimana. Da Praga ricevetti la notizia che tutti i milionari erano già nel campo di raccolta. Un istituto per preti a San Giovanni sotto la roccia, un enorme convento e pensionato di futuri preti che erano stati allontanati. E poi mi decisi, e fu quel giorno in cui vennero dagli uffici provinciali a riferirmi con un certo riguardo la notizia che il Comitato Nazionale mi requisiva al cava, e che lì ero per ora amministratore, che tutti i miei diritti di proprietà passavano al popolo. Ma io ero pieno di rancore. Sapevo che cosa probabilmente era stato, che era stato di nuovo Zdenek, andai in provincia, e lì in ufficio da Zdenek, e lui non disse nulla. Si limitò a sorridere triste, prese ancora una volta un fascicolo dal suo tavolo e lo strappò davanti a me e mi disse che sotto la propria responsabilità strappava la mia professione per il fatto che quella volta l'avevo scontata al posto suo con quell'orologio guardato, che ore erano, ma io gli dissi che questa da lui non me l'aspettavo, che pensavo fosse mio amico, ma che lui era contro di me. Perché io ero quello che per tutta la vita non voleva e non perseguiva altro se non possedere un albergo ed essere milionario. E me ne andai. E a notte stavo davanti al portone illuminato dell'istituto per preti. Davanti al portone c'era un milizionario con un fucile da militare e io mi presentai a lui. Ero un milionario, hotelier del cava. Volevo parlare col comandante per una questione importante. Così il milizionario prese il telefono e dopo un momento mi fecero entrare nel portone e poi in un ufficio dove stava seduto un altro milizionario, ma senza fucile. Aveva davanti a sé elenchi e fascicoli e una bottiglia di birra dalla quale beveva senza sosta. E quando ebbe finito di bere, cercò sotto il tavolo e da una cassa tirò fuori un'altra bottiglia, l'aprì e beve avidamente, come se gli fosse venuta sete solo ora. E io gli domandai se non gli mancava per caso un milionario, che io non avevo ricevuto la circolare e che ero anch'io un milionario. E lui guardò i fascicoli, scorse i nomi con la matita, ma poi mi disse che milionario non ero e che andassi tranquillamente a casa. Ma io dissi che era una svista, che milionario lo ero. Ma lui mi prese per la spalla e mi portò fuori verso il portone e mi dava spintoni e sbraitò: «Lei nell'elenco non c'è, quindi milionario non è». E io tirai fuori il libretto di risparmio e gli feci vedere che avevo sul libretto 1.100.010. E dico con aria di vittoria: «E questo che è?» E lui guardò il libretto e io implorai: «Non vorrà scacciarmi». E così lui ebbe pietà e mi spinse dentro il seminario e mi dichiarò internato e trascrisse tutti i miei dati e le informazioni necessarie. Quell'internato per studenti di teologia era davvero simile a una galera, a una caserma, a un qualche collegio per universitari poveri, a parte che nei corridoi, a ogni curva, tra le finestre, dappertutto pendeva un crocifisso alternato a scene della vita dei santi. E quasi su ogni quadro c'era un martirio, un orrore terribile, dipinto dal pittore con una precisione tale che il fatto che 400 milionari abitassero nelle celle dei preti in 4 o in 6 era uno scherzetto. D'altronde io mi aspettavo che lì ci sarebbero stati terrore, cattiveria, come quando ero stato in galera quei 6 mesi dopo la guerra per quel decreto piccolo, ma invece al contrario, qui, in questo istituto di San Giovanni, regnava il grottesco. Nel refettorio c'era una specie di tribunale, i milizionari venivano con i fucili da militari, con fasce rosse sul petto, gli cadevano sempre le cinghie, l'uniforme non era cucita su misura, ma come a farlo apposta, ai piccoli stava grande e ai grandi piccola, sicché preferivano tenerla slacciata. E la sentenza ce la facevano così, che per ogni milione ogni milionario prendeva un anno. Così ho presi 2 anni per quei 2 milioni. Il fabbricante di attrezzi da ginnastica, siccome aveva 4 milioni, prese 4 anni. E più di tutti ne prese l'hotelier Srubeck, 10 anni, perché aveva 10 milioni. Ma la difficoltà maggiore era su quale registro trascrivere quegli anni e i dati personali. Proprio come un problema tremendo era contarci la sera, perché ogni sera mancava qualcuno. Ma questo era per il fatto che andavamo a prendere la birra con le brocche nel paese vicino, e poi probabilmente anche perché i nostri sorveglianti bevevano continuamente, sicché non riuscivano a contarci, anche se la conta cominciava già nel pomeriggio. Così preferirono scegliere il metodo della conta per diecine, e ogni volta una delle guardie batteva le mani, e una terza guardia lasciava cadere un sassolino, per poi, dopo aver contato l'ultimo, contare i sassolini, aggiungere al risultato 1-0 e il numero rimanente che non arrivava a 10. Tuttavia ogni giorno eravamo di più o di meno, anche se c'eravamo tutti. Ogni volta che la somma dei milionari internati concordava veniva trascritta, e tutti tiravamo il fiato giusto nel momento in cui arrivavano 4 milionari portando cassetto, brocche di birra, e così per non far confusione li dichiaravano nuovi arrivi, e ognuno di quei milionari, secondo i milioni che dichiarava, prendeva di nuovo altri anni in più. Era sì un internato, però non aveva recinzione. Sicché nel portale stavano seduti i milizionari e i milionari andavano e tornavano per il giardino e dovevano tornare indietro e attraversare il portone che ogni volta i milizionari aprivano e poi richiudevano a chiave. E però torno torno non c'era né recinzione né muro, sinché anche i milizionari prendevano la scorciatoia del giardino, però poi gli si metteva in moto la coscienza e ritornavano verso il portale e ne facevano il giro per il giardino con le chiavi ed aprivano ed entravano e poi richiudevano il portone e poi facevano di nuovo il giro del portale per entrare nell'internato. La difficoltà maggiore era il cibo, ma si dimostrò una difficoltà inutile, perché al comandante e ai milizionari piaceva mangiare con i milionari, e quel che portavano dalle caserme dei milizionari veniva dato in pasto ai porci che aveva comprato un milionario, il fabbricante di dentiere, sicché prima c'erano 10, poi 20 porcellini, e tutti aspettavano la maialatura, perché qui i milionari erano macellai che promettevano ghiottonerie tali che i milizionari si leccavano i baffi già prima, e davano loro stessi consigli su specialità ancora migliori che si potevano fare col maiale. E poi qui si cucinava non come negli internati per i futuri preti, ma come si cucinava nei conventi ricchi, come cucinavano per esempio i crociferi. Se qualche milionario finiva i soldi, il comandante mandava il milionario a casa per prendersi i soldi. Prima con lui ci andava un milizionario travestito da civile, ma poi bastava un giuramento, e l'internato poteva andarsene a Praga per i soldi e prelevare in banca dal libretto, da quel milione o da quei milioni, perché il comandante gli dava un attestato secondo il quale quel denaro serviva per scopi pubblici conformi alla legge. E così nell'internato si cucinava alla grande, si faceva il menù che veniva fatto approvare dal comandante perché esprimesse gentilmente le sue osservazioni, in quanto i milionari consideravano i milizionari propri clienti, e infatti nelle sale da pranzo e nei refettori sedevamo tutti insieme. Thank you. milionario Tinora una volta ottenne il permesso di andare a Praga per ingaggiare dei musicanti, un quartetto, una specie di complesso d'archi, e quando portò quei musicanti in taxi, qui in generale si era sviluppata l'abitudine di andare a Praga in taxi fino al bivio, così entrarono facendo il giro del portale chiuso in quel campo di concentramento per milionari, svegliarono le sentinelle perché era ormai mezzanotte e uscirono nuovamente davanti al portone che le sentinelle assonnate non riuscivano ad aprire, sicché il milionario fece il giro del portale attraverso il giardino dal lato opposto, dall'interno prese le chiavi e uscì fuori facendo il giro del portale e lì aprì il portone, ma siccome la chiave era un po' difettosa non si riusciva a richiudere, così entrò nuovamente dentro e da qui chiuse il portone e consegnò le chiavi. Io pensavo sempre, peccato che Zdenek non fosse milionario, lui qui sarebbe stato nel proprio elemento. Lui non soltanto tutto il denaro suo, ma anche il denaro degli altri, quelli che non avevano abbastanza fantasia per impiegare milioni, lui avrebbe fatto tutto al posto loro col loro consenso. Così dopo un mese tutti i milionari detenuti erano abbronzati, perché ci abbronzavamo sui pendii, mentre invece i milizionari erano pallidi perché da un lato stavano dentro il portale, dall'altro facevano continuamente rapporti, stavano seduti nelle celle e non riuscivano a mettere insieme neppure condizioni e nomi, perché alcuni nomi come Novakovic erano tre volte e così via, perché dovevano sempre portare le armi, gli cadevano sempre i fucili e le borsette con le munizioni e intanto continuavano a cancellare e trascrivere quei rapporti che alla fine faceva per loro ogni hotelier milionario, come se preparasse un menù. E siccome qui era rimasto dall'istituto cattolico un podere dove c'erano 10 mucche e il prodotto di quelle mammelle non bastava per il caffè del mattino, qui si serviva caffè appena macinato con latte, nel quale, usanza introdotta dall'hotelier Srubrek, si metteva un bicchierino di rum, come aveva imparato al caffè Sacher a Vienna. Allora il fabbricante di vernice e colori in polvere comprò altre 5 mucche e così il latte era sufficiente, perché alcuni non sopportavano il caffè latte e al mattino prendevano solo un bicchierino di rum oppure bevevano rum dalla tazza, una specie di ciotola, perché avevano mangiato ancora la notte, così per digerire. Bello anche quando una volta al mese venivano in visita le famiglie. Il comandante comprava dei cordoncini bianchi da bucato e li tendeva intorno al muro immaginario, e dove quel cordoncino non bastava faceva lui stesso col tacco una riga che divideva gli internati dall'internato e dal mondo di fuori. E così arrivavano le mogli e i bambini con zaini e borse con cibi e salami ungheresi e scatolami di ditte straniere, e nonostante ci sforzassimo di apparire emaciati, siccome eravamo abbronzati e ben nutriti, se qualcuno fosse venuto senza conoscere la situazione avrebbe pensato che in prigione stavano quelli venuti in visita e che la galera era fuori, perché come si vedeva quell'internamento dei milionari lo sopportavano peggio i parenti che i milionari in quanto tali. E siccome non si poteva mangiare tutto, noi milionari dividevamo i cibi con i milizionari ai quali piaceva tutto, sicché ottennero dal comandante che le visite fossero permesse 2 volte al mese, ogni 2 settimane. E così accadde che quando non si riusciva a mettere insieme da 30 a 50 mila corone, il comandante permetteva che degli esperti scegliessero libri preziosi nella biblioteca del convento, e quei libri venivano portati a Praga in auto negli antiquariati di libri. E poi saltò fuori l'idea che si sarebbe potuto vendere la biancheria da letto e da notte e i corredi dei futuri preti a San Giovanni sotto la roccia, sui cui pendii prendevamo il sole e facevamo la pennichella dopo pranzo. Questo era ormai quasi inutile, perché i milionari veri lo sapevano da tempo, già da molto tempo rubavano quei bei lenzuoli, quelle belle camicie da notte delle filande di montagna. Già da tempo portavano via in valigia quei begli asciugamani, 12 dozzine alla volta. Qui ce n'era di roba nei magazzini, perché chiunque andava via da qui come futuro prete, ognuno riceveva un corredo che nessuno controllava, ma nessuno era inventariato, al contrario, era a disposizione dei milizionari e dei milionari, affinché in quel campo di raccolta dei milionari non scoppiasse una qualche malattia infettiva, un colera, oppure dissenteria, o tifo. E così poi succedeva che una vacanza se la prendevano anche i milionari, tanto avevano fiducia in noi, sapendo poi che non saremmo scappati, e se fossimo scappati, ci è successo due volte, portammo un altro milionario buon conoscente perché si riposasse dalla famiglia. E così i milizionari le uniformi se le toglievano e si rivestivano in borghese, e le uniformi le prendevamo noi milionari e sorvegliavamo noi stessi, quando dovevamo far servizio di domenica o far la guardia la notte fra il sabato e la domenica, ne eravamo tutti contenti, perché era una comica che non avrebbe inventato neppure Chaplin. Per tutto il pomeriggio giocavamo alla liquidazione del campo dei milionari. Il comandante della guardia, milionario tignora, vestiva da milizionario, proclamò che il campo veniva liquidato e che i milionari potevano andare a casa. Ma i milionari si rintanarono, e così i milionari vestiti da milizionari cominciarono a convincerli. Gli spiegarono come fosse bella la libertà fuori, come non avrebbero sofferto e guaito sotto la sferza dei milizionari, bensì avrebbero vissuto la libera vita dei milionari. Ma i milionari non volevano neppur sentirne parlare. Così il milionario tignora, vestito da milizionario, da comandante degli altri milionari vestiti da milizionari come guardia al portone, comandò la liquidazione forzata del campo e tirammo fuori dalle celle i milionari, quelli che avevano 10 o 8 milioni e dunque 10 o 8 anni. Cercarono poi le chiavi del portone e non riuscirono ad aprirlo, così quei milionari lo aggirarono e si aprirono da fuori e poi di nuovo aggirarono il portone e si misero in riga. E tutti stavamo a guardare, crepavamo dalle risate per come i milionari, condotti dai milizionari, furono trascinati fuori, come dietro di loro fu richiuso il portone, e i milionari giunsero fino alla collina e, dopo essersi guardati intorno, cambiarono idea e tornarono indietro e batterono al portone della galera e pregarono in ginocchio i milionari vestiti da milizionari di fornir loro asilo. E anch'io ridevo, ma in realtà non ridevo, perché sebbene stessi dalla parte dei milionari, tuttavia non ero entrato a farne parte. Sebbene dormissi addirittura con l'hotelier Srubeck, mi era avverso, addirittura non potevo neppure porgergli un cucchiaio caduto, lo raccoglievo, lo tenevo, e stavo così in quella nostra mensa con la posata in mano, come anni prima col bicchierino col quale quella volta nessuno aveva voluto brindare con me, e l'hotelier andò a prendersi un cucchiaio di ricambio e mangiò la minestra con quel cucchiaino. E quello che avevo messo accanto alle sue posate, quel cucchiaio, lo scostò schifiltosamente col tovagliolo, tanto che cadde in terra. Tutti guardavano come l'hotelier con un calcio allontanò da sé quel cucchiaio, tanto che volò sotto il tavolo di refezione sui paramenti. Io ridevo, ma non avevo nessuna voglia di ridere, perché appena cominciavo a parlare di quel mio milione, di quel mio locale alla cava, tutti i milionari ammutolivano e guardavano altrove. Loro non riconoscevano quel milione, quei miei 2 milioni, e io capii che mi tolleravano fra loro, ma che non ero degno di loro, perché i milionari possedevano quei milioni già da molto, da prima di questa guerra, mentre io invece ero un arricchito di guerra che loro non solo non volevano accogliere, ma non potevano, perché non ero socialmente adeguato. Probabilmente la stessa cosa sarebbe stata in quel mio sogno, se l'arciduca mi avesse nominato e elevato alla condizione di nobile e mi avesse fatto barone. Non sarei ancora stato con questo barone, perché gli altri nobili non mi avrebbero accolto fra loro, proprio come non mi avevano preso amichevolmente fra loro i milionari. E al contrario, quando un anno prima ero ancora fuori, potevo illudermi che un giorno mi avrebbero preso fra loro, anzi, ero convinto che come proprietario del ristorante alla cava ero loro pari. mi porgono anche la mano, conversano amichevolmente con me, ma tutto questo era soltanto apparenza. Ogni ricco tenta di conquistare i favori del maître di un ristorante o di un albergo. Addirittura prega al maître di dare un bicchiere in più, e il maître poi brinda e beve insieme a lui. Però, se un ricco così incontrasse per strada quel suo maître, non si fermerebbe, non parlerebbe con lui. È solo un certo bon ton, perché con un maître o proprietario di albergo, con una persona del genere, è bene avere buoni rapporti, in quanto influenza che cosa gli si porta da mangiare e da bere, come lo alloggia, e come un tocco dei bicchieri e un brindisi alla comune salute per lo scambio di qualche parola cordiale, il maître è tenuto alla discrezione, al silenzio. Però, se un ricco così incontrasse per strada quel suo maître, non si fermerebbe, non parlerebbe con lui. È solo un certo bon ton, perché con un maître proprietario di albergo, con una persona del genere, è bene avere buoni rapporti, in quanto influenza ogni cosa che gli si porta da mangiare e da bere, come lo alloggia. E come per un tocco dei bicchieri e un brindisi alla comune salute per lo scambio di qualche parola cordiale, il maître è tenuto alla discrezione. Al silenzio. Vi basta? Con questo oggi finisco. Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.